9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 5 di gennaio, pre-epifania. La Befana quest'anno vi porta uno strumento nuovo nell'ordinamento giuridico italiano. È uno strumento dal quale milioni di tutti voi, nelle molteplici aspetti di utenti, di consumatori, acquirenti di imprese private, oppure di utenti di imprese che vi offrono servizi di tipo energetico, oppure l'acqua, di trasporto, possono avere una possibilità di rivalersi, di tutelare meglio i propri diritti. Di che cosa si tratta? Si tratta, dopo lunghi anni di rimbalzo di legislatura in legislatura, perché non si riuscivano a definire le caratteristiche precise di questo strumento, dell'entrata in vigore invece dal 1 di gennaio di quella che si chiama la class action. E cioè uno strumento collettivo di tutela dei diritti dei consumatori. E proprio perché per milioni di italiani potenzialmente questo strumento potrebbe rappresentare una notevole novità, abbiamo deciso oggi di dedicare ben 2 ore della programmazione di Radio 24 a capire meglio e a spiegarvi meglio e a interrogarci insieme a voi su quali saranno le caratteristiche di questo strumento una volta che passerà dalla definizione normativa alla sua concreta attuazione, e per poi spiegarvi anche bene in quali limiti, in quali forme, in quali condizioni potrete decidere se avvalervi o meno, in che forme e con chi, per tutelare attraverso la class action i vostri diritti eventualmente violati. E quindi abbiamo deciso di fare una specie di staffetta tra questa prima ora 9 in punto, in cui ci occupiamo degli aspetti più generali del provvedimento che entra in vigore, nel capire come siamo arrivati alla definizione della class action italiana rispetto ai grandi modelli, soprattutto quelli anglosassoni e americani, per capire in altre parole se ciò che scontenta alcuni, soprattutto le associazioni dei consumatori, vedremo, aveva un fondamento nel adottare quindi istituti diversi da quelli della legge americana. E poi invece ci sarà una staffetta alle 12 con Deborah Rosciani nel Salvadanaio, vedremo in concreto i diversi aspetti in cui, come risparmiatori, titolari di conto corrente, per rispetto ai molti istituti che sono stati messi sotto critica dai regolatori, le commissioni di massimo scoperto, oppure se in quanto clienti di aziende di telecomunicazioni per questioni come la portabilità, se come passeggeri di un'azienda di trasporto pubblico, ecco, in quali di tutte queste vesti con Deborah Rosciani vedremo concretamente come può funzionare o non può funzionare questa class action. Innanzitutto poi bisognerà distinguere, perché le procedure, le modalità e anche il fine della norma è molto diverso per quello che riguarda la tutela dei diritti nei confronti di aziende private rispetto alla class action nella pubblica amministrazione, come vedremo. Io questa volta, invece che darvi un mio giudizio, una mia illustrazione sui termini generali della legge, poiché tradirei immediatamente il fatto che io non sono tra i troppo critici rispetto a le caratteristiche che ha questa legge, o tuttavia delle mie remore, passo direttamente alla presentazione degli ospiti per vedere con loro quali saranno i punti salienti di ciò che ha in positivo e in negativo, secondo me, caratterizzato questa forse troppo lunga riflessione che il legislatore italiano ha dedicato a questo strumento di azione collettiva, che ha una differenza di fondo comunque rispetto a quella della scuola americana, che deriva dalle caratteristiche fondamentalmente diverse dei nostri ordinamenti, da quelli di common law rispetto a quelli di diritto codificato continentale come quello italiano. Ecco, da questa azione collettiva, di cui tra poco capiremo come e se avvalersi, in ogni caso c'è una differenza di fondo. Mentre il giudice americano, oltre a procedere all'eventuale esame e all'eventuale decisione sul ristoro del danno nei confronti della classe di soggetti che insieme ricorrono in giudizio per la tutela dei loro diritti, il ristoro del danno, può applicare misure aggiuntive anche molto molto molto pesanti, non solo sanzioni in denaro, ma si sconfina anche nello stesso procedimento civile anche nell'adozione poi di misure penali. E questo nel nostro ordinamento, per i principi generali dell'ordinamento, non è possibile, non sarà possibile neanche in questo caso. Quindi anche nel caso della class action italiana si va solo al ristoro del danno, non si va a sanzioni aggiuntive. Quindi visto che nella storia americana la class action ha portato a sviluppi all'inizio considerati molto positivi, poi considerati molto critici. Pensiamo solo a che cosa ha rappresentato per le grandi multinazionali del fumo, quindi con pene aggiuntive per molte decine di miliardi, in alcuni casi disposti dal giudice. Ecco, tutto questo in Italia non ci sarà. Qui il problema è il ristoro del danno e soprattutto nella lunga riflessione parlamentare, proprio il dibattito critico che si era sviluppato negli Stati Uniti, forse sull'eccesso di tutela dato ai consumatori e alle loro associazioni, è stato recepito dal legislatore italiano, perché vedremo che nelle caratteristiche di questo nostro provvedimento ci sono tutta una serie di misure: l'identificazione del soggetto, come l'azione può essere incardinata, attraverso quale definizione di diritti identici da tutelare, la disciplina della pubblicità, dell'azione medesima e così via, che probabilmente risentono proprio del fatto che negli Stati Uniti iniziava da lunghi anni una riflessione nel dire: va bene, abbiamo dato questo strumento, adesso tentiamo di impedire che diventi uno strumento tagliatesta alle aziende. Noi naturalmente viviamo in un paese in cui la parte precedente non si era vista, e quindi il punto interrogativo da iniziare ad affrontare è se noi ci avvaliamo di una riflessione positiva che viene dal mondo anglosassone nel tentare di restringere e identificare meglio la platea dei soggetti e delle modalità con cui si esercita la class action, o se invece avendo non conosciuto la prima fase, quella della sua applicazione molto pervasiva e con effetti anche terribilmente sconvolgenti in alcuni segmenti del mercato per le pronunzie dei giudici, questo strumento si rivelerà poi in definitiva un'arma spuntata. Ecco gli ospiti con cui questi altri interrogativi di ordine generale iniziamo a prendere in considerazione. Abbiamo con noi innanzitutto l'avvocato Alessandro De Nicola. Buongiorno avvocato De Nicola. Buongiorno. Che è presidente della Adam Smith Society, editorialista del Sole 24 Ore, e in particolare lui poi ha proprio approfondito anche la parte americana e anglosassone della class action, perché ha pubblicato un libro alcuni anni fa in cui si approfondiva proprio l'analisi economica e giuridica della class action. Poi con questa sua opera poi ha preso il PhD a Cambridge, quindi è uno che ne sa parecchio. E abbiamo con noi anche il senatore Elio Nannutti. Buongiorno senatore. Buongiorno, che buongiorno a tutti. Senatore dell'Italia dei Valori, presidente della ABUSDEF. Aggiungeremo poi nel corso della trasmissione Silvana Sica, che è il vice segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, perché scopriremo che c'è anche un particolare problema relativo all'attuabilità nel nostro ordinamento allo stato attuale di questo provvedimento, che prevede delle sezioni specializzate, 9, e vedremo che i magistrati ci diranno che le sezioni specializzate ancora non ci sono. Allora cominciamo con l'avvocato De Nicola. Intanto alcune riflessioni sulle caratteristiche di questa norma. Quanto a platea dei soggetti che possono incardinarla, qui non si parla di associazioni, devono essere gli individui che poi possono dare la delega alle associazioni. Poi quanto a identificazione delle condizioni per poter fare l'azione, in particolare il fatto che la classe abbia diritti identici violati da far valere, su questa identità molti temono che possano essere utilizzate dal giudice per scremare molto piuttosto che per ammettere in maniera più agevole le azioni di classe. Ecco, in tutta questa serie di caratteristiche, innanzitutto su come l'azione si incardina, c'è un filtro anche giurisdizionale iniziale sulla fondatezza dell'azione. La sua opinione è che noi ci avvaliamo dell'esperienza americana che impedirà eccessi? È stato positivo aspettare così tanto per arrivare a questi paletti, o i paletti sono fatti per tutelare le imprese? Dunque, io credo che i paletti come sono stati messi adesso siano un miglioramento rispetto alla precedente versione della legge, quella che era stata approvata ma non dal Parlamento, ma semplicemente proposta dal governo Prodi. Sono state prese in considerazione alcune preoccupazioni. Le due preoccupazioni principali che adesso ci sono e che lei ha appena citato, cioè quella della strettoia derivante dalla identità di interessi da parte dei consumatori, ne ripetiamo, i consumatori non possono aderire a una azione collettiva, a una class action, se non hanno interessi identici. Questa, io credo, sarà interpretata in modo non stringente dalla giurisprudenza. In altre parole, non credo che i giudici pretenderanno che i consumatori devono avere per forza la stessa identica situazione giuridica, e quindi posso dire due correntisti di un conto corrente bancario devono avere delle commissioni di massimo scoperto o equivalenti commissioni di massimo scoperto che incidono esattamente per la stessa percentuale per poter dire di avere la stessa identica situazione. Penso che si arriverà a un'interpretazione di identica posizione giuridica, quindi non proprio di identità di tutto, e questo dovrebbe essere un qualche cosa che facilita. Buona invece mi sembra la procedura che prevede, anche qui lo ricordiamo a chi ci ascolta, prevede un filtro, nel senso che quando l'azione collettiva viene presentata da un consumatore, ma quasi sempre saranno le associazioni dei consumatori, l'abbiamo visto anche in questi giorni, le due class action che sono apparse sui giornali, quelle sul vaccino dell'influenza suina e quella contro Unicredit e Banca Intesa, sono state presentate da associazioni dei consumatori, perché ovviamente non è difficile trovare un consumatore o un utente che dia mandato all'associazione dei consumatori. Le associazioni dei consumatori hanno centinaia di migliaia di iscritti che sono anche consumatori, niente di più facile trovare qualcuno che gli dia il mandato, quindi su questo obiettivamente non c'è questa grande differenza rispetto a prima. Quindi diciamo, se, quando l'associazione dei consumatori presenta la richiesta, il giudice valuta se non ci siano conflitti di interesse, se la richiesta non sia manifestamente infondata e se chi presenta la richiesta sia adeguato a rappresentare la classe di soggetti. In altre parole, ad esempio, non sarebbe probabilmente adeguato un utente che non ha la benché minima, appare non avere la benché minima né idea né preparazione né legittimazione a rappresentare altre centinaia di migliaia di utenti. Quindi si farà un po' lo screening che si fa negli Stati Uniti. Questo screening è essenziale perché negli Stati Uniti, con le riforme che ci sono state, adesso i giudici valutano esattamente questo, valutano che non sia manifestamente infondata, valutano l'adeguatezza, che è un giudizio a volte quasi morale. L'avvocato che va lì a presentare, che negli Stati Uniti sono gli avvocati che lo fanno, deve dimostrare di avere la preparazione necessaria, di avere un good standing, quindi cioè di essere uno di reputazione per poter presentare la richiesta. E addirittura negli Stati Uniti i giudici fanno una sorta di asta, siccome in tanti avvocati si precipitano a presentare il ricorso per la class action, in genere ce ne per ogni class action sono almeno 10-15 avvocati che lo fanno, il giudice valuta chi sia il più adeguato. Quindi questo screening iniziale, per quanto imperfetto, secondo me è stata un'aggiunta positiva che in qualche modo tiene conto dell'esperienza americana. Quindi insomma l'avvocato De Nicola ci dice dopo gli interventi legislativi a cui faceva riferimento avvengono nel 2005 negli Stati Uniti con elementi correttivi rispetto all'esperienza della class action negli Stati Uniti, ne abbiamo approfittato, tutto sommato sono cose positive. Naturalmente io ho l'obbligo di avvisare gli ascoltatori di Radio 24, di ricordare loro, per chi non lo sapessero, che Confindustria si è molto battuta in questi anni perché i diversi provvedimenti di legge, i diversi disegni di legge e proposte di legge che giacevano in Parlamento mettessero questi filtri, perché ovviamente Confindustria si è battuta perché le imprese fossero tutelate contro l'eccesso di azioni risarcitorie o l'eccesso di azioni, diciamo, gravate da qualche azzardo morale potesse colpire troppo le imprese. Cioè Confindustria ha giocato all'aperto e ovviamente, insomma, la class action non è che gli piacesse troppo. Ecco, allora, però questo è un caveat che io sono obbligato a fare come giornalista, perché poi noi ci dobbiamo porre anche il problema, oltre che delle imprese, però ci dobbiamo porre il problema dei consumatori e dei cittadini. Ecco, allora, da questo punto di vista le mie domande sono le stesse domande, ma da un punto di vista molto diverso, cioè quello dell'associazione dei consumatori, di chi come Lannutti ha portato poi l'esperienza dell'associazione dei consumatori anche nella rappresentanza politica. Il suo giudizio in realtà, innanzitutto su queste caratteristiche iniziali, come si incardina l'azione, riduzione, come si identificano i soggetti, sul filtro giurisdizionale, sul fatto che comunque l'obiettivo è solo quello del ristoro del danno e non di sanzioni aggiuntivi, né civili ovviamente, né tantomeno di carattere penale. Lasciamo per il momento da parte le distinzioni sulla la class action, la pubblica amministrazione, la vediamo a parte dopo, ma intanto il suo giudizio qual è? Questi paletti erano positivi, come ci ha detto l'avvocato De Nicola, o sono cose che secondo lei rendono un'arma spuntata? Allora, innanzitutto io prendo atto della sua correttezza, perché a Radio 24 è un organo di Confindustria, e quindi lei correttamente ha ricordato che a Confindustria non piaceva né la vecchia azione di classe, che era stata approvata durante il governo Prodi, voglio ricordarlo, però anche su input di alcune associazioni dei consumatori, tra le quali anche la nostra, l'ADUSBEF e altre, e quindi non solo Confindustria ma anche altri soggetti come banche e assicurazioni hanno fatto opera di lobbying per evitare due questioni: la prima, che entrasse in vigore; la seconda, che potesse rappresentare anche quei diritti violati in precedenza, ossia tutto il fenomeno, vogliamo ricordare, del risparmio tradito, Cirio, Parmalat, ma andando anche al ritroso, l'anatocismo bancario, l'Argentina e Tango Bond, naturalmente, ma anche in precedenza ci sono stati 700.000 risparmiatori frodati per 22 miliardi di euro, cioè ricordiamo i Canavesio, i Mendella, eccetera, che bruciarono il suo risparmio. Allora, quindi, fatta questa premessa, inciso da Diovannum, perché la ringrazio di darmi atto del fatto, abbiamo fatto tanti dibattiti insieme Lannutti pensando allo stesso modo, tutte queste cose ricordate da Lannutti, io lo ricordo a chi sta a casa, non saranno tutelabili con la class action, perché tutto ciò che riguarda il giorno precedente all'entrata in vigore della legge, cioè il 16 agosto del 2009, non ricade in questa disciplina. Prego Lannutti ancora, tra poco la interrompo e poi le ridò la parola perché abbiamo la pubblicità. Sì, ma molto brevemente, è un'arma abbastanza spuntata, è un'arma anche che presenta dei rischi, perché abbiamo visto che i tribunali non sono preparati. Noi come associazioni ci andremo molto molto cauti nel proporre azioni di classe avventate che magari potrebbero avere un effetto boomerang, però dico subito che ci sono alcuni filoni per i quali l'azione di classe può essere intentata. È già stata ricordata la commissione di massimo scoperto praticata dalle banche nonostante la legge l'avesse vietata. Questa è una storia lunga, questa commissione applicata fino all'1,20-1,50% trimestrale, non sull'utilizzo dei soldi degli affidamenti, ma su, per esempio, uno c'ha 100.000 euro di affidamento, ne utilizza 10 e pagava 100 sui 100.000 euro questa commissione, che io ho definito, se lei me lo consente, un vero e proprio pizzo. Era stato vietato, le banche l'hanno fatta resuscitare e quindi c'è questa indagine dell'antitrust al Parlamento, al Governo, alla Banca d'Italia, che è stata appena comunicata qualche giorno fa, il 29 dicembre, e che insomma è la prova provata dell'astuzia delle banche, che sono banche allergiche alle regole, allergiche all'ordinamento, cercano sempre di svicolare. Io insomma tralascio la questione dei prodotti derivati, del risparmio che è stato bruciato, di tutto quello che, per l'avidità dei banchieri, tutto quello che noi stiamo pagando in termini di disoccupazione, di impoverimento della ricchezza delle nazioni. Tralasciamo questo. Quindi intanto un filone applicabile è quello, e noi lo stiamo studiando, perché, lo ripeto, dobbiamo essere seri, non dobbiamo fare azioni avventate, non dobbiamo fare azioni temerarie che si potrebbero ritorcersi contro, e ne stiamo studiando. Innanzitutto questa, quindi vedremo nei prossimi giorni a che punto arriveranno i nostri legali, quelli di ADU, delle sedi dei consumatori, perché vorremmo su questo, al di là di chi inizia, i diritti, io lo dico sempre, non hanno colore politico, quindi la difesa degli interessi diffusi al di là della primogenitura, il Codacons, l'ADUS, della fede del consumatore, non ci interessa. Vedremo poi di riunificare queste azioni al di là di chi lo ha annunciato o meno. La seconda, l'anatocismo bancario, anche se lì la retroattività non è prevista, però ci sono migliaia di cause impiantate in tribunale. Noi le vinciamo tutte perché lei se lo ricorda, direttore, quando insomma si riuscì a vincere in tribunale, questa è una battaglia che abbiamo iniziato noi, Cassazione, arrivò poi un governo che disse chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato, se ce lo ricordiamo, il Presidente del Consiglio a quei tempi era Massimo D'Alema, noi andammo alla Consulta e riuscimmo a far annullare quel decreto salva banche. Quindi anche l'anatocismo che noi riusciamo a far risarcire con la documentazione fino al 1956, qualche giorno fa siamo andati anche su una grande trasmissione dove una banca non voleva pagare e siamo andati per pignorare questa banca. Con le telecamere di una importante trasmissione è stata staccata l'assegno circolare. Quindi anche sull'anatocismo è possibile risalire laddove c'è la documentazione per la classe dei consumatori anche in maniera retroattiva. Questo poi lo vedremo successivamente. Quindi perfetto, io la interrompo qui perché c'è la pubblicità. Intanto quindi c'è una giudizio di Annutti, questi due filoni che riguardano il risparmiatore nei confronti dei rapporti con le banche, che consentono in presenza di documentazione, giurisprudenza alla mano, di riunire in una rappresentanza collettiva, quindi di classe, la tutela anche di un danno in periodi precedenti all'entrata in vigore della legge. Eccoci tornati in studio, direi ovviamente buona prassi per i conduttori mai fare una sola parola di commento della pubblicità, ma mai come oggi devo dire che chi offre questa trasmissione, cioè parte lesa, rispetto all'argomento che ci siamo dati è assolutamente attinente. Allora c'è qualche telefonata, iniziamo con Virgilio dalla provincia di Ravenna, prego Virgilio. Buongiorno signor Oscar e ai suoi ospiti. Io a quanto ho sentito da diversi esperti, sempre dei consumatori, c'è stato un depotenziamento rispetto alla legge come era stata, tra virgolette, formulata, credo, dal governo Prodi, posticipata dal governo Berlusconi l'entrata in vigore. Questo, pensar male già è peccato, ma spesso ci si prende. Non vorrei che tutto questo fosse un bel servizio alle cosiddette multinazionali o grandi gruppi, che già di per sé hanno degli stuoli di avvocati da far impallidire chiunque, e poi mettiamo così, tirandolo lunga, il brodo si allunga e il rimborso probabilmente sarà più basso. Chiudo dicendo, voi che conoscete il mondo anglosassone, se c'è una sentenza contro una grande industria viene accusato di comunismo il giudice. Grazie, buona giornata. Virgilio, lei ci vuole portare su una strada scivolosa, quella della polemica politica, ma in questa trasmissione noi ci picchiamo di rimanere nel merito. Come vede, noi abbiamo iniziato l'esame del provvedimento che entra in vigore dando ampio risalto a quello che secondo me in parte è giusto, cioè noi dovevamo nell'introduzione in un ordinamento che ha tradizioni diverse mettere dei paletti diversi da quelli che consentono al giudice nell'ambito di common law uno spazio di azione, uno spazio anche di decisione che è diverso da quello degli ordinamenti codificati. Primo. Secondo, è vero anche a mio giudizio che qui in Parlamento le imprese, innanzitutto quelle bancarie, e poi non solo quelle bancarie, hanno ottenuto una serie di filtri in cui ci siamo occupati della prima parte della trasmissione, che tutto sommato cosa ottengono a seconda di come verranno utilizzati dal giudice. Se vengono utilizzati positivamente, secondo me scoraggiano azioni improprie, tanto è vero che mi colpisce che l'associazione dei consumatori in questi primi giorni sono esse per prime dichiarano che dovranno fare un uso cauto, prudente di questo strumento, dove per cauto e prudente non significa che non faranno azioni alla tutela di diritti violati, ma che insomma dovranno tentare di evitare quello che negli altri ordinamenti, negli Stati Uniti invece, si è verificato molto sistematicamente, cioè che queste azioni collettive, poiché rappresentavano innanzitutto per gli avvocati uno strumento di abbeveraggio con cospicue pingue cui possibilità di arricchimento, c'era un proliferare di azioni che poi hanno prodotto spesso anche conseguenze molto negative per interi segmenti dell'attività economica. Allora il problema è che però se questo verrà utilizzato in maniera negativa nel nostro ordinamento, e ricordo innanzitutto che le nuove sezioni specializzate presso cui incardinare le azioni collettive oggi non le abbiamo ancora nel nostro ordinamento organizzato, quindi bisognerà vedere poi quando sarà possibile iniziare davvero, una volta depositate queste azioni, a vederle poi esaminate. Però bisognerà vedere concretamente quali di questi due aspetti della medaglia prevarrà. Ora io introduco una seconda parte del nostro ragionamento che riguarda poi la distinzione molto netta da fare delle class action nei confronti di imprese private rispetto alle cui condizioni di fornitura di un servizio o nell'acquisto di un prodotto, oppure comunque nei confronti di una cui esecuzione contrattuale una classe di soggetti si ritenga lesa nei propri diritti, distinguendo però rispetto a quando questa azione è da intentare nei confronti di una impresa pubblica o nei confronti della pubblica amministrazione, perché io ricordo chi è in ascolto che si tratta di un regime molto diverso nei confronti della pubblica amministrazione. Qui bisogna ricordarlo, per un intervento pesante che è venuto dal ministro del Tesoro, che ha fatto cambiare idea al ministro della funzione pubblica Brunetta, che voleva una class action anche nel caso della pubblica amministrazione, esplicitamente orientata e dotata di strumenti giuridici per il ristoro del danno nei confronti del cittadino, cliente, del pubblico servizio. Alla fine la versione che è passata della legge prevede che il fine dell'intervento sia esclusivamente quello del ripristino delle condizioni di efficienza del servizio, e queste condizioni di efficienza del servizio, perché la class action nel settore pubblico possa essere esercitabile, andranno preventivamente definite attraverso una serie di decreti presidenziali, di cui siamo in attesa, perché di ciascuno di questi servizi verranno identificati gli standard di servizio. In assenza di una cui esplicita identificazione non si potrebbe procedere neanche poi a verificarne la violazione da parte della classe di clienti. Ecco, in quel caso, quindi, dopo la segnalazione, la decisione di fronte all'organo che a quel punto di giustizia amministrativa e non di giustizia ordinaria è volta al ripristino delle condizioni di efficienza del servizio, e naturalmente questo rende la class action nella pubblica amministrazione, sì, uno strumento positivo, perché attraverso di questa passa uno stadio di identificazione del benchmark di qualità dei servizi, però insomma è ulteriormente spuntata. Su questo secondo aspetto, altro giro di opinioni tra i nostri due ospiti. Iniziamo con l'avvocato De Nicola. Nell'esperienza americana, ovviamente, dove le municipalizzate pubbliche non hanno lo stesso rilievo che hanno nel nostro paese, la class action ha portato nel settore pubblico comunque a effetti positivi, a effetti che hanno provocato un dibattito analogo a quello rispetto all'eccesso di class action nel settore privato, oppure no? Una prima cosa che è importante capire, questo perché la domanda prima dell'ascoltatore è rivelatrice: la class action in realtà è uno strumento che in qualche modo tutela anche le imprese. Mi spiego. Basta ricordarsi quello che è successo in Italia con le cause derivanti dalla problematica dell'RC Auto. Dopo che ci fu il provvedimento dell'antitrust, sono partite centinaia di migliaia di cause per il rimborso delle differenze relative alle polizze RC Auto, che avevano un valore di poche centinaia di euro. Peccato che ognuna di queste cause avesse dei costi giudiziari di qualche migliaio di euro. Soprattutto in alcune regioni d'Italia si è sviluppata una vera e propria industria di avvocati che presentavano questi ricorsi contro le assicurazioni, e sostanzialmente si facevano liquidare le loro parcelle, e queste parcelle avevano quasi sempre un valore di molto superiore a quello che era il risarcimento per il cliente. La class action è nata proprio per questo motivo, è nata per dare efficienza al sistema giudiziario, cioè ridurre i costi del sistema giudiziario. Invece che fare 1000 cause che hanno un valore da 100 euro ciascuna, però il costo giudiziario magari di 2-3 mila euro, ne faccio una sola e quindi l'intero ordinamento giudiziario ne ha un beneficio, ma ne ha un beneficio anche l'impresa, perché l'impresa, invece che risarcire 1000 diversi avvocati, ognuno per cifre di 1000 euro, 2000 euro, ma se sono 1000 diventano 2 milioni di euro, se perde non risarcisce uno solo, cioè quello che rappresenta i consumatori. Questo è importante da tenere a mente, perché ci fa ricordare perché nasce la class action. Nasce per dare efficienza, non nasce per nessun altro motivo, nasce per dare efficienza all'ordinamento giudiziario. Poi quello che riguarda la pubblica amministrazione, negli Stati Uniti funziona come? Basta ricordarsi i risarcimenti che hanno avuto gli indiani americani dal governo grazie alle class action, e funziona come? Ha esattamente gli stessi pregi e difetti che ha la class action nei confronti delle imprese private, con una differenza fondamentale però negli Stati Uniti rispetto a quello che succederebbe in Italia. Vale a dire, negli Stati Uniti i funzionari pubblici che con il loro comportamento negligente hanno fatto sì che il governo o la municipalità o lo Stato o la contea o la scuola sia costretta al risarcimento del danno, quel funzionario dopodiché viene fatto accomodare e gli si richiedono anche i danni a sua volta. Poi naturalmente lui è assicurato, come sono assicurate tutte quante le istituzioni americane, e quindi in qualche modo sono le assicurazioni che coprono tutto. Qui in Italia, seppur nominalmente ci sia la responsabilità del pubblico funzionario, la Corte dei Conti e così via, lei, dottor Giannino, che è uomo di esperienza, quanti dirigenti pubblici ha visto mandare via dalla pubblica amministrazione perché hanno provocato un danno erariale? Questa è la mia risposta. Quindi in Italia il problema è sempre quello, noi possiamo fare quello che ci pare, ma quando al potere non si coniuga la responsabilità, possiamo fare il risarcimento del danno, possiamo fare le carte di servizio e così via, ma se nessuno è tenuto responsabile, poi alla fine la storia è sempre quella. Quindi la mia risposta è questa. Lannutti, la parte pubblica amministrazione della class action, nel suo giudizio, come avrà capito, io la considero, insomma, era meglio non farla. Secondo me, rispetto a questa, era meglio non farla così, addirittura nella pubblica amministrazione. Però la sua opinione qual è? È acqua fresca, dottor Giannino, è una sorta di ufficio reclami, e lo ha detto anche giustamente l'avvocato De Nicola che mi ha preceduto, e sono dichiarazioni di intenti. Poi alla fine in Italia lo sappiamo che non paga mai nessuno, però se lei mi permette, come no? Io vorrei proprio tornare su quel tasto che ha toccato il nostro gentile ospite, l'avvocato De Nicola, perché l'azione di classe è nata quando l'antitrust, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, comminò una sanzione al cartello delle compagnie assicurative, cioè ricordiamo, per 700 miliardi di vecchie lire. Perché? Perché non si facevano concorrenza, avevano trovato un accordo. Noi anche in quella fattispecie fummo protagonisti, alcune associazioni e anche chi parla protagonisti, perché andammo al TAR, al Consiglio di Stato, ad adiuvandum, perché le compagnie fecero ricorso, e nel momento in cui fu accertato un cartello che aveva prodotto dei danni a 18 milioni di assicurati, noi fummo noi che intentammo azioni davanti al giudice di pace con un facsimile, ce lo ricordiamo, queste, e si otteneva il rimborso di 516 euro senza bisogno di un avvocato. Ci furono le trattative anche con l'ANIA, che è l'associazione delle imprese, per arrivare a una convergenza, nel senso, noi dicemmo, non è che noi vogliamo distruggere, noi, insomma, la maggior parte delle associazioni hanno a cuore anche la responsabilità, non è che vogliono distruggere diciamo la libertà di impresa, vogliono che ci siano le regole. E in quella fattispecie noi dicemmo, questi 516 euro noi potremmo pure sviluppare negli altri paesi, in Francia per esempio tutte le case sono assicurate, svolgemmo una trattativa, stavamo per raggiungere l'accordo, ricordo che c'era l'attuale presidente del CNEL, che allora era ministro dell'industria, il professor Marzano, non se ne fece nulla perché arrivò la legge salva compagnie. Eccoci tornati in studio, due telefonate e poi nel commento di Lanotte e la risposta di De Nicola. Innanzi iniziamo con Dario da Brescia, prego Dario. Allora, distinguerei tra pubblico e privato. La Clack Station nel pubblico è pericolosissima, non è vero che non paga nessuno, pagano i contribuenti. Faccio un esempio: i treni vanno in ritardo, i pendolari hanno un bonus sui ritardi, sulle inefficienze. I treni sono sussidiati dallo Stato e dalle regioni, aumentano i costi dei sussidi. È il punto, bisogna stare molto attenti, perché da quando abbiamo messo il bonus ferroviario si sono di fatto peggiorate le condizioni e legalizzati i ritardi. Non solo, ma c'è una forte iniquità. Il treno oggi lo paga chi non lo usa, se poi paghiamo anche i ritardi che costano di più, ancora una volta chi non lo usa, l'automobilista, paga il treno due volte. Quindi c'è da fare attenzione, perché la Clack Station non deve essere soltanto un meccanismo di rimborso dei danni, ma deve essere un meccanismo che incentiva l'efficienza. Aspetti un secondo, prima che vada la seconda parte, quella sul privato, sì. Un'osservazione al volo. Io sono molto d'accordo con quello che dice lei sui servizi universali che finiscono per essere sussidiati, cioè pagati da chi non li usa. Questo è delicato perché, per esempio, nel trasporto ferroviario significa chi paga il sussidio per il trasporto ferroviario e i pendolari. Io capisco che è un punto delicato perché ovviamente si identifica quello come una parte del servizio pubblico che deve obbligatoriamente essere offerta dal pubblico. Io non sono d'accordo, secondo me ha ragione lei, ed è ovvio che col bonus finisce per pagarlo ancora di più chi non lo utilizza il servizio, e questo però è un punto delicato. Però ripeto, con la class action nella pubblica amministrazione, così come è oggi definita ed entrerà in vigore dopo che ci saranno i decreti presidenziali sui criteri benchmark di efficienza nei singoli servizi, il fine che si otterrà sarà quello solo di ripristinare l'eventuale servizio ove non esercito in condizioni di efficienza da benchmark, non sarà il ristoro del danno. Però volevo sottolineare che in quello che ha detto lei c'è una parte di ragionamento impopolare, ma secondo me molto giusta. Poi nella parte privata lei diceva? Parte privata invece ovviamente sì, perché l'individuazione delle responsabilità sono private, personali o di un gruppo di privati che hanno responsabilità, e dunque se devono rimborsare qualche cosa o devono indurre meccanismi di efficienza lo fanno a loro motivate, a loro spese, insomma, su questo sono assolutamente d'accordo. Torno un attimo però indietro: l'efficienza della pubblica amministrazione non si fa creando un meccanismo esterno che induce ad avere dei rapporti diversi con la clientela, insomma. Io non ho mai visto, la pubblica amministrazione francese non è nata, la sua proverbiale efficienza non si è sburocratizzata perché c'è stato un meccanismo di questo tipo qua, insomma. Siamo noi stessi che dobbiamo essere in grado di fare la riforma, non inventare dei meccanismi esterni che possono bacchettare un disservizio, insomma. Mi pare che sia un meccanismo troppo tortuoso questo per arrivare all'efficienza della pubblica amministrazione o a dei meccanismi di competizione che siano un pochino in piedi, che non siano cartelli e via discorrendo. Grazie Dario. Vladimiro da Firenze, prego Vladimiro. Pronto, buongiorno a tutti. Vladimiro, spero di aver detto corretto nome, perché leggo che mi hanno detto Valdimiro, però magari... Infatti è Valdimiro. E allora sono io che ho sbagliato, perché mi fidavo poco del mio collaboratore e invece mi prendo la mia responsabilità e mi fido di più. Prego. Ok, io penso che la classe action in questo momento, con questa affermazione della legge ormai approvata, è stata declassata a una mera dimostrazione di protesta e di sfogo dei consumatori, senza pratiche conseguenze per le multinazionali, le banche, le pubbliche amministrazioni, se non quando, dopo moltissimo tempo forse, sarà approvata l'accusa di una sanzione finita, qualsiasi sia il crimine che hanno commesso, la truffa, eccetera. Quindi, chi ha approvato questa legge, i nostri politici, forse hanno tenuto più di conto degli interessi delle multinazionali, delle banche e di loro stessi che fanno parte delle pubbliche amministrazioni, pensiamo a Publiacqua, pensiamo a tutte quelle che sono le derivate di quello che era una volta la pubblica amministrazione, e quindi si sono parati, diciamo, da loro stessi nei confronti dei cittadini che potrebbero avere dei danni, delle conseguenze da azioni criminali. Quindi mi domando, non è che siamo in mano a dei politici anche che stanno attenti più alla tangente di queste lobby e quindi potenzialmente complici di questi criminali? Valdimiro, lei dice che addirittura in Parlamento, se abbiamo messo questi filtri di cui abbiamo parlato nella prima parte, è perché si sono fatti pagare dalla multinazionale. Influenzare. No, influenzare è questo, è il gioco delle lobby e degli interessi, c'è stato, e alla luce del sole. Io per correttezza nei confronti di chi ascolta, siccome questa radio di Confindustria, dico che Confindustria non ha mai fatto mistero, lo ha prodotto con documenti pubblici che ha consegnato alle commissioni che si occupavano di esaminare diversi progetti, cioè ha espresso tutte le preoccupazioni che le imprese italiane avevano di fronte alla possibilità che ci fossero eccessi nell'azione di questo tipo. Il punto è che cosa il legislatore ha ritenuto di fare incardinando l'istituto in questa modalità nel nostro ordinamento, e soprattutto come poi, perché poi quello che conta nella realtà italiana è quello che fanno i giudici rispetto alla legge, da 15 anni a questa parte ne dovremmo sapere qualche cosa, visto che non si riesce da questo punto di vista ad aver ragione in termini di legge, di un ordinamento che evolve in termini di giurisprudenza, cioè noi per capire le imprese, non per giustificarla, perché io, come avrete capito, mi sono battuto per molti anni per la tutela dei diritti dei consumatori e dei clienti, molto più che per quella delle imprese, però io difendo anche le imprese. In una realtà di un paese in cui, quando c'è un incidente sul lavoro, oggi come oggi il pubblico ministero adotta come fattispecie quella dell'omicidio volontario nei confronti dell'amministratore delegato di queste imprese, come è avvenuto a Torino per il caso Thyssen, per essere concreti, chi è in ascolto deve anche capire che le imprese temono che poi nell'esercizio della giurisprudenza strumenti troppo ampi finiscano per fare delle cose terrificanti. Allora, parte finale del nostro confronto dopo questi interventi degli ascoltatori. Prima l'avvocato De Nicola e poi chiudiamo con la Nuti. Abbiamo 3 minuti, quindi 1 minuto e mezzo a testa. Avvocato De Nicola, cosa c'è da attendersi dal punto di vista della giurisprudenza? Purtroppo il pubblico ministero Sica, a cui avevamo chiesto di rappresentarci questo punto di vista, si è negato al collegamento. Lei che si aspetta? Un'interpretazione estensiva, come io temo, oppure no? Allora, mi aspetto una interpretazione abbastanza estensiva sulle identità di diritti. Su questo non credo che i giudici saranno molto fiscali. Penso che saranno prudenti su altre problematiche, e in più credo che quello che succederà più spesso sarà che sia le associazioni dei consumatori, sia i singoli consumatori, sia gli avvocati, perché non è escluso che anche in Italia, come negli Stati Uniti, si crea un gruppo di avvocati che si specializzano in class action. È vero che le modifiche al patto di quota lite intervenute rendono meno favorevole per gli avvocati oggi mettersi insieme per questo? Sì, è meno favorevole, però siccome in Italia comunque si ragiona sempre in termini, anche con la tariffa professionale, del 2-3%, il 3% di 100 milioni comunque per un avvocato italiano ci sta, insomma, non è una cosa che vale la pena correre il rischio. Allora, quello che è possibile, quello che credo che succederà, è che le class action saranno a ruota di provvedimenti delle autorità indipendenti, nel senso, perché perde tanto tempo a dimostrare eventuali pratiche scorrette delle banche, delle società di telecomunicazioni e così via, quando l'autorità antitrust, per dirne una, ogni anno emana 100-150 provvedimenti in tema di pratiche commerciali scorrette? Ok, io la interrompo qui, perché lei dice: io mi aspetto prudenza e mi aspetto una cosa per cui le autorità facciano la battistrada. Io ricordo chi ci ascolta che il giudice può sospendere una richiesta di class action, può sospendere uno dei casi previsti dalla legge proprio se vi siano istruttorie aperte innanzi ad autorità indipendenti. Domanda finale invece per Ranuti: lei cosa si aspetta in concreto? Come si comporteranno i giudici da una parte parte, le associazioni dall'altra, e come sarà il rapporto con le autorità, che come abbiamo visto, insomma, volendo, il giudice può far molto riferimento a loro, ma le autorità a questo punto lo utilizzeranno come una leva per aprire spazio alla tutela dei diritti negati, oppure no, secondo lei? Sì, bisogna aprire questo spazio alla tutela dei diritti negati collettivi e bisogna distinguere tra autorità. Ci sono autorità che hanno rapporti incestuosi con diciamo le imprese controllate, mi riferisco a Banca Italia, è una SPA, e noi stiamo studiando anche un'azione di classe contro Banca Italia ABI per quanto riguarda i tassi di interesse che sono più elevati rispetto alla media europea, per quanto riguarda l'omessa vigilanza, soprattutto per ciò che attiene al rimborso, per esempio un'altra battaglia, l'ammortamento dei mutui alla francese, che costituisce un danno collettivo per tutti i mutuatari, ossia prima si fanno rimborsare gli interessi e poi il capitale. Già abbiamo ottenuto fior di sentenze su queste fattispecie, quindi bisogna allargare la platea e bisogna dare un messaggio chiaro. D'ora in avanti, al di là di quello che poi i giudici, io mi auguro che i giudici possano continuare ad effettuare un'azione di tutela verso i diritti che spesso sono negati, ma mi auguro che anche le imprese, e io, insomma, dottor Giannino, lei lo sa, insomma, io sono in maniera particolare attento ai signori banchieri che sono, lo ricordo, allergico alle regole, allora bisogna che anche loro da domani, invece di fare i furbetti, si diano una regolata e continuare a truffare impunemente e frodare, mi assumo tutta la responsabilità di quello che, quello dice, che certo. Dico, devono cominciare anche loro a fare un attento esame di coscienza, perché quando si offrono prodotti e servizi, per esempio, lo sa, l'ultimo business è quello, e difatti anche su questo interverremo, è quello che ti do un mutuo se tu mi paghi un'assicurazione di 8-9 mila euro. Esatto, è vero. Ecco, allora, anch'io ho quasi documentati dei nostri ascoltatori che mi segnalano cose di questo genere. Io ringrazio il senatore Lunti, ringrazio l'avvocato De Nicola. Come avrete capito, Radio 24 e quindi la radio di Confindustria non si tira indietro, pur non avendo mascherato le azioni che Confindustria ha svolto per avere una definizione dei limiti di intervento di questa legge sulla class action, per darvi più informazioni, e quindi ve lo ricordo ancora alle 12 con Salvadanaio Lotti, Deborah Rosciani, in concreto i singoli settori in cui ciascuno di voi può esaminare come e se intentare un'azione di classe insieme a coloro che fossero lesi nei loro diritti di consumatori. Grazie per quello che mi riguarda, l'appuntamento a domani alla linea giornale radio.